Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergente e il traghettatore, ben trovati. Apriamo con una puntata che sarà un po' dedicata al sociale sotto molteplici aspetti. Cominciamo con il dentista. Un'inchiesta del quotidiano inglese Independent ha bollato i dentisti italiani come i più cari in Europa. È per questo che noi facciamo un piccolo strappo alle regole citando due dentisti che certo non potranno curare tutti gli italiani, ma solo quelli residenti a Pavia. Si chiamano Roberto D'Aquino e Livio Ravetta. Si sono dichiarati dentisti sociali perché tutti i mercoledì dalle 9 del mattino alle 6 di sera ricevono, su appuntamento ovviamente, i pazienti con problemi di budget. Prima fanno la visita e il preventivo sarà gratuito, in seguito prezzi molto bassi. Noi raccontiamo questa storia nella speranza che altri dentisti in ascolto seguano questo esempio. Così come speriamo che altri banchieri, bancari, seguano l'esempio di Emil Banca. C'è con noi in collegamento Giuliana Braido, che è responsabile della responsabilità sociale d'impresa di Emil Banca. Buongiorno Giuliana Braido. Buongiorno a voi. Voi fate una cosa davvero speciale con ASP, Poveri Vergognosi, Comune di Bologna e Dauser. Lanciate un microcredito a favore delle famiglie che non possono permettersi di pagare l'affitto, è così? Esatto, sì. Il progetto del microcredito per la casa è stato attivato da Emil Banca, è il più recente, insieme al microcredito a giovani imprenditori, dopo un'esperienza pluriennale del credito di emergenza personale. È un'attività appunto che portiamo avanti insieme a questi partner che lei ha citato ed è finalizzata proprio a intervenire concretamente a favore di quelle famiglie che sono in situazione di difficoltà economica, ma specificamente per risolvere problematiche abitative, quindi avvio o mantenimento di una locazione. Questo riguarda gli abitanti di Bologna? Del comune di Bologna. Esatto, al momento è limitata a questo target. Ecco, segnalavo a chi ci ascolta che è una rarità, perché comunque è evidente che sono soggetti a, tra virgolette, a rischio per una banca, perché non potendo permettersi di pagare l'affitto hanno anche probabilmente qualche difficoltà a restituire questo microcredito, quindi da parte della banca è un'azione importante. Diciamo di sì, come poi è la caratteristica del microcredito. I piccoli prestiti sono erogati a favore di persone che normalmente sono escluse dal canale del credito e quindi sostanzialmente rappresentano effettivamente un soggetto più rischioso. È anche vero che comunque, proprio perché si tratta di credito, è necessario che venga verificato che la difficoltà economica che la famiglia o la persona sta attraversando non sia strutturale, ma sia superabile, perché sennò bisogna intervenire con altri mezzi. Con altri mezzi di sussistenza, evidentemente. È già partita come prodotto? È già partito? Avete già delle esperienze in questo senso o ancora? Diciamo che abbiamo già numerose richieste e comunque i partner sono gli stessi con cui già facevamo il credito di emergenza personale, quindi diciamo che abbiamo ampliato come tipologie di casistiche, insomma anche proprio di presentazione delle domande, anche appunto all'affitto piuttosto che insomma al pagamento di una caparra o all'acquisto dell'arredo, e quindi le finalità abitative non rientravano nelle precedenti casistiche. Abbiamo un pochino ampliato, tant'è che le caratteristiche sono le medesime. Sì. Abbiamo innalzato un pochino di più l'ammontare, che va tra i 500 e i 5.000 euro, ma il tasso di interesse applicato è il medesimo. Bene. Non ci sono spese per i beneficiari, le caratteristiche sono praticamente le stesse. Benissimo. Grazie, certo è una tristezza dover parlare di questo, perché vuol dire che ci sono dei soggetti veramente in difficoltà, ma onore al merito alla sua banca, grazie a Giuliana Braido. Grazie a lei, buona giornata. Chiudiamo con un altro sms, abbiamo già dato uno ieri per Emergency. Oggi vi proponiamo di aiutare 300 bambini gravemente cardiopatici, servono 250.000 euro. La campagna si chiama Cuore di Bimbi ed è della fondazione Aiutare i Bambini. Vi chiediamo di dare 2 euro, di offrire 2 euro con un sms al numero 45507. Avete tempo fino al 28 febbraio. Se volete saperne di più, c'è un sito che si chiama proprio cuoredibimbi.it. Grazie di averci seguito. Ferribotto @ Radio 24 per le vostre segnalazioni e ferribotto @Radio 24 su Facebook. In redazione Anita Panizza e Gian Gabriel Lombardo, in regia Filippo Aureggi. A risentirci.